in quinta, di te cura nero di pure. Si passi un passo morro, una giung di medi di samar, contra quinta cai, giù di pubis tu dubi da fu. Quinta o in quinta, di te cura nero di pure. Poco ferita sicuro di fora di nos, a poco morirà la lua nuova pratiata, una lua scia. Gloria pa Quinta. Cheia, glória pra quem tá.